devo parlare della situazione di Potenza. Veniamo da una nottata intensa, visto che si è concluso solo questo pomeriggio una vicenda che è iniziata nella mattinata di ieri. Praticamente 10 ragazzi nigeriani che erano ospiti presso un centro di accoglienza della cooperativa Solidarietà sono stati cacciati dal centro con un mandato del prefetto, un'ordinanza del prefetto che ne revocava il diritto all'accoglienza per, secondo quanto scritto nelle carte, una serie di inottemperanze e di mancato rispetto del regolamento interno del centro presso il quale loro si trovavano. L'ultimo evento, quello scatenante, l'espulsione, è accaduto circa una settimana fa, quando sono stati trasferiti all'interno della struttura altri ragazzi provenienti da un altro centro di accoglienza gestito dalla stessa cooperativa che si trova nella città di Melfi, e questi ragazzi sono stati collocati all'interno delle stesse stanze in cui si trovano alcuni di questi ragazzi nigeriani, provocando una situazione di sovraffollamento che ha causato alcuni problemi tra i ragazzi stessi e tra i ragazzi e alcuni dei gestori del centro. E nella mattinata di ieri, con l'intervento della polizia, è stato notificato a questi 10 ragazzi, tutti nigeriani, l'ordinanza che li cacciava da questo centro, revocando il diritto all'accoglienza. Tutti e 10 stavano aspettando la risposta in appello per quanto riguarda la richiesta d'asilo, e quindi fino a che non avranno ottenuto un'accettazione o un diniego per questa richiesta, sono comunque senza alcun documento e quindi impossibilitati a spostarsi dall'Italia, e quindi da ieri si trovavano anche al di fuori del circuito dell'accoglienza e quindi senza un posto dove dormire, senza pocket money e senza poter usufruire del servizio di mensa. In maniera spontanea, visto che l'ordinanza veniva dal prefetto, si erano radunati in presidio sotto la prefettura, a che noi compagni e compagne dell'Anzacresa, il centro sociale di Potenza, insieme ad altri solidari della città, abbiamo raggiunto il loro presidio cercando di capire meglio che cosa fosse successo, e quindi abbiamo deciso di restare con loro in presidio fino a che il prefetto non avesse deciso di accogliere una delegazione. Questa udienza col prefetto è stata più volte negata sia direttamente a loro sia a noi, e oggi abbiamo finalmente capito perché. E in pratica ci si è organizzati per passare la notte davanti alla prefettura e quindi rimanere in presidio lì per cercare di smuovere la situazione e ottenere un incontro col prefetto al fine di chiedere la rimozione di questo provvedimento che ne revocava l'accoglienza, e quindi potergli permettere di rientrare nel circuito dell'accoglienza, perché era questo che loro volevano nell'immediato. E anche questa mattina abbiamo sollecitato nuovamente un incontro col prefetto, che ci è stato nuovamente negato, fino a quando abbiamo scoperto che il problema era rappresentato dal fatto che noi, non essendo un'associazione né un sindacato, non veniamo riconosciuti come un soggetto con il quale interloquire, per cui è dovuto intromettersi il sindacato USB, che è sopraggiunto con un suo sindacalista nel pomeriggio senza conoscere alcun dettaglio della vicenda, ed è stato immediatamente accolto nell'ufficio del prefetto per discutere della questione. Ovviamente si è riusciti a far entrare anche una nostra compagna a questo incontro, senza che però venisse concesso l'udienza a nessuno dei ragazzi coinvolti nella vicenda, quasi fossero degli estranei a una procedura che invece li riguardava direttamente. E quindi si è raggiunto un accordo temporaneo, una soluzione che perlomeno ci lascia qualche giorno di tempo per riorganizzare le idee e capire che cosa fare, perché si è riusciti a ricollocare, diciamo, questi ragazzi in due strutture cittadine al di fuori del circuito dell'accoglienza, gestite da preti o comunque strutture di alcune chiese, che fino a, hanno garantito che fino a lunedì danno un alloggio e un pasto ai ragazzi. Ovviamente noi punteremo a capire come si evolverà la situazione, e tra l'altro questa stessa soluzione, una delle due strutture si era già offerta ieri di accogliere i ragazzi, però solo una parte di loro, e quindi si è, l'assemblea dei nigeriani, dei ragazzi, ha deciso di rifiutare questa offerta perché non includeva tutti in questa opzione, in questa soluzione. Oggi, quando si è aggiunta a questa sistemazione un'altra sistemazione per i ragazzi che restavano esclusi dalla prima scelta, si è, hanno deciso di accettarla, anche perché stremati un po' dal presidio prolungato, perché dopo più di 24 ore in presidio, con giornate che sono state parecchio calde di giorno, ma la temperatura a potenza di notte scende parecchio, si salta direttamente all'inverno, e quindi è stata un po' stancante anche per loro la situazione, hanno deciso di accontentarsi per ora di questa soluzione. Allora, intanto, insomma, grazie per averci raccontato, insomma, queste due giornate piuttosto intense. Io mi sento, insomma, di precisare qualche passaggio, perché forse chi non ha, insomma, ben seguito la vicenda che riguarderebbe i diversi centri d'accoglienza a Potenza e provincia, tra l'altro vicende che vengono raccontate dalle stesse persone che sono costrette in questi centri. Per chi volesse, sul sito di Onda Rossa ci sono già due testimonianze tradotte con appunto compagni che si trovano ad affrontare una lotta proprio contro questo circuito. Quello che salta immediatamente all'occhio è che, insomma, questo regolamento interno dei centri d'accoglienza è totalmente discrezionale e quasi a senso unico, tant'è che la maggior parte delle proteste che sono sorte in città, proprio in quei centri d'accoglienza, era perché gli enti gestori essenzialmente non rispettavano neanche i minimi accordi presi sulla gestione della vita delle persone in questi centri, e quindi la maggior parte delle proteste in realtà sono avvenute anche in merito alle condizioni di trattenimento. Altro aspetto è quello dei continui trasferimenti, proprio perché ci sono probabilmente a Potenza, in Basilicata, non poche cooperative che hanno strutture tentacolari. Spesso avvengono dei trasferimenti anche punitivi in strutture lontano dalle città, e che sono spesso diciamo alla base di ulteriori proteste da parte di chi vi viene rinchiuso. Ma insomma sembra che c'è un vero, diciamo, l'abbiamo spesso sottolineato, che è un contesto di estremo business quello della Basilicata rispetto ai centri di accoglienza. Ora, io sicuramente, dato che il problema è il sovraffollamento, se la prefettura, le prefetture in generale, pensano di poterli risolvere cacciando la gente dai centri, mentre sono le stesse persone che portano avanti le lotte per avere i documenti, ecco, all'inaugurarsi di una calda estate dove sicuramente la questione del sovraffollamento riguarderà tantissimi centri, mi sembra abbastanza diciamo importante che si sia messa in piedi una lotta, un presidio di solidarietà che quantomeno abbia fatto sentire un po' il fiato sul collo alla controparte. Ora, sicuramente mi lascia abbastanza, come dire, senza parole l'atteggiamento di chi continuamente in alcuni territori continua ad essere l'unico referente che la controparte riconosce, e che accetta poi, come dire, di contrattare al posto delle persone, prendendo delle scelte e ovviamente, come dire, non solo sostituendosi ma abbassando notevolmente anche il livello di rivendicazioni che le stesse persone portano avanti. Questo è qualcosa che andrebbe sottolineato, forse è anche merito di una bassa nelle lotte che si può registrare un po' ovunque, ma se un sindacato viene preso come unico referente, mentre chi porta avanti le lotte si ritrova un muro insormontabile di fronte alla controparte. Questo forse è qualcosa che ci dovrebbe spingere forse a fare un pochino di più, piuttosto che appoggiarsi su queste possibilità che lo Stato concede. Sì, tra l'altro nella vicenda di questi giorni è emerso, cioè oggi l'abbiamo proprio constatato in maniera palese, che il prefetto comunque aspettasse di avere la possibilità di parlare, di interfacciarsi solamente con un'organizzazione sindacale, perché è evidente che la soluzione si sarebbe potuta trovare ugualmente, la stessa soluzione si poteva trovare ugualmente, ma non è stato proprio permesso né ai ragazzi di autodeterminarsi e quindi di entrare in colloquio per poter quantomeno decidere autonomamente tramite un loro rappresentante magari cosa fare, se voler accettare o meno, se rilanciare, se avanzare loro delle proposte, perché ovviamente quando è nato il presidio la rivendicazione era quella di revocare la revoca, scusate il gioco di parole, cioè volevano essere reintegrati nell'accoglienza, volevano ritornare nel centro dal quale erano stati cacciati, e quindi solo il prefetto poteva revocare l'ordinanza che aveva emesso. Ovviamente dopo una giornata di lotta e per colpa o grazie a influenze esterne si è giocata a ribasso e si è ottenuto questo risultato temporaneo, che poi probabilmente andrà si tornerà a battagliare già dalla prossima settimana, perché non si è risolto nulla, in sostanza si è messo una pezza con questo incontro che c'è stato, basandosi anche sulla necessità immediata dei ragazzi che non avevano veramente nessun posto dove appoggiarsi, di quantomeno sistemarsi per poter riorganizzare un attimo le idee e riprendere un po' le forze. Allora, se non vuoi aggiungere altro, ovviamente noi ci terremo a riaggiornarci. Insomma, ci dicevi che insomma fino a lunedì è garantito un pasto e un letto alle persone che sono state espulse dai centri. Ovviamente penso che lunedì sì, ovviamente si tornerà, come dire, quantomeno a ricapire questa situazione, a capire come andare avanti. Ovviamente sì, sicuramente ci saranno degli aggiornamenti. Al momento l'orario che è stato stabilito per entrare in queste nuove sistemazioni è le 18, quindi attualmente non sono ancora entrati i ragazzi, adesso si trovano presso il centro sociale, stanno ancora con noi, e quindi per il momento non sono ancora stati sistemati in queste strutture, però ci fidiamo che avverrà in giornata. Ovviamente poi ci aggiorneremo eventualmente lunedì, per oggi non c'è null'altro da dire. Bene. Grazie ancora di averci permesso di esporre la vicenda. No, grazie a voi e niente, a risentirci all'inizio della prossima settimana con gli aggiornamenti. Ovviamente vi chiederemo anche un riepilogo su questa vicenda, ma così come la situazione un po' a potenza in diversi centri. Certo, va benissimo. Grazie e buona lotta. Ciao, grazie.